Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Ha senso che i campi fotovoltaici nascano laddove una volta crescevano mais, grano oppure pomodori? Beh, ci sono punti di vista divergenti su questo argomento, ma ormai è prevalente, insomma, l'idea secondo la quale ha più senso che il fotovoltaico vada a ricoprire superfici già edificate, come i tetti. Tuttavia, l'energia fotovoltaica può rappresentare una formidabile risorsa per il settore agricolo e a dirla tutta c'è un modo piuttosto ovvio di risolvere il dilemma: far convivere le due colture, quella alimentare e quella energetica. Ebbene, circa un anno fa è partita nelle vicinanze di Piacenza una sperimentazione proprio in questa direzione. Si tratta di una sorta di tensiostruttura che poggia su dei pali e che mantiene i pannelli fotovoltaici sollevati dal terreno di alcuni metri. Sollevati e liberi di ruotare per inseguire il sole oppure, per esempio, per mettersi in posizione di sicurezza in caso di intemperie. I pali su cui si regge tutta la struttura sono disposti ai vertici di una griglia a maglie quadrate e sono anch'essi distanziati di vari metri in modo tale che le macchine agricole possano muoversi liberamente tra di essi e che i pannelli fotovoltaici ombreggino solo in minima parte la superficie agricola sottostante. Inoltre tutta la struttura può servire da supporto per altri servizi come l'irrigazione o pratiche più avanzate, distribuzione di sensori e quant'altro. La struttura, tra l'altro, io l'ho vista a suo tempo e trovo che sia dotata anche di una certa eleganza, di una certa leggerezza, che quindi insomma non cozzi dal punto di vista paesaggistico. Ebbene, nel corso del 2011 a Piacenza un primo impianto è stato installato su un campo agricolo messo a disposizione da un agricoltore locale e per tutto l'anno è stata messa alla prova la convivenza nella vita di tutti i giorni tra attività agricole e questo speciale campo fotovoltaico. Ci racconta come è andata Giovanni Zangrandi, agricoltore e proprietario dei terreni su cui si è svolto l'esperimento. Buonasera Zangrandi. Buonasera. Beh, la convivenza è stata buona, è stata positiva. Gli scopi che ci eravamo prefissati siamo riusciti a portarli avanti. Quelle che erano le caratteristiche dell'impianto sono state poi le stesse che ci siamo ritrovati nelle lavorazioni. E insomma, è andato tutto come previsto. Quindi, per esempio, effettivamente si riesce a far passare queste macchine, si riescono a svolgere le lavorazioni del terreno e quant'altro sotto questa struttura senza particolare intralcio. Questo, per esempio, era una delle cose da mettere alla prova. Sì, questa era una delle cose da mettere alla prova e ci siamo riusciti positivamente, siamo riusciti a lavorarci sotto e abbiamo anche così la dimostrazione di quello che è stato fatto. È stata una cosa positiva perché il prodotto si presenta molto bene. Ecco, quindi ecco perché anche su questo ricordo ne avevamo parlato un po' di tempo fa, domandava ma comunque questi pannelli, anche se in piccola percentuale, ombreggiano il terreno. Ci possono essere delle conseguenze sulle colture? Secondo me no, assolutamente. Secondo me i problemi non ci sono per il grano che abbiamo fatto adesso e non ci saranno neanche in futuro con altre coltivazioni, perché la parte ombreggiata è veramente minima, ma soprattutto è un ombreggiamento mobile, quindi certo. Un po' di refrigerio anche loro con queste giornate di caldo, non penso che disturbi, non fa male. Insomma, se cresce il grano, che come noto è una di quelle colture che di sole ha molto bisogno, presumibilmente andrà bene anche col resto. Va bene, grazie allora Zangrandi. Buonasera, arrivederla. Bene, ora dal fotovoltaico sospeso su campo agricolo facciamo qualche altro metro e passiamo direttamente al fotovoltaico volante. Parliamo di aerei a energia solare. Ricorderete certamente il Solar Impulse, l'aereo progettato dal Politecnico di Losanna, una sorta di quadrimotore ultraleggero a energia solare che ha dimostrato come sia possibile volare per 24 ore consecutive, quindi notte e giorno, con il sole come unica fonte di energia. E il Solar Impulse ora è impegnato nel giro del mondo. Ebbene, c'è già in giro un concorrente di Solar Impulse con caratteristiche tra l'altro decisamente più orientate a fini commerciali. Parlo di Electra One Solar, un piccolo aereo monoposto a energia solare presentato a metà di aprile, capace di restare in volo comunque più di 8 ore e percorrere circa 600 miglia. Insomma, non facciamoci troppe illusioni, il trasporto aereo a energia solare difficilmente potrà rispondere alle esigenze di velocità del mondo moderno. Questo Electra One Solar fa poco più di 100 km orari, insomma non molto per un mezzo che può volare, ma certamente più che sufficienti per un amante del volo o anche per veicoli deputati alla sorveglianza aerea che devono restare in volo a lungo, ma non è importante che viaggino molto veloci. Ebbene, prima di salutarci, fatemi fare una digressione a questo punto per sfatare un mito. Se l'aereo energia solare può senza dubbio trovare qualche applicazione, per l'auto a energia solare le possibilità sono davvero scarse. Il problema è niente meno il sole. A mezzogiorno, all'equatore, il sole scarica sul terreno una potenza di circa 1 kW per metro quadro di superficie. I pannelli solari più evoluti del mondo riescono a convertire in energia elettrica circa il 40% della luce che ricevono. Ma ammettiamo anche di arrivare al 100%. Un'automobile ha sì e no una superficie di 4 metri quadri. Quindi il nostro mezzo, dotato di super pannelli, avrebbe a disposizione, se no, 4 kW di potenza, cioè un decimo della potenza delle utilitarie meno prestanti. Coi pannelli attualmente in commercio, per avere abbastanza potenza da farci un sorpasso in autostrada, ci vorrebbe un veicolo grande come un campo da basket e forse anche qualcosa di più. Insomma, nulla vieta di fare un'auto a energia solare, ma a patto di vivere in pianura, di rinunciare a qualunque comodità a vantaggio di un veicolo il più leggero possibile, e soprattutto a patto di avere orrore per velocità superiori ai 50 all'ora. Non so voi, ma a me non sembra granché. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.